Buonasera e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. Questo è il mio secondo anno qui sugli 88.9 di Radio Città Aperta e dopo aver concluso insomma la prima stagione con diciamo un riscontro positivo anche da parte vostra, di voi ascoltatori, ecco, siamo arrivati alla seconda edizione e diciamo, visto che nel frattempo sono successe un po' di cose, c'è un nuovo sindaco ciclista, e visto che io personalmente anche mi sono convertito diciamo al culto delle due ruote, ho pensato che era simpatico poter iniziare questa seconda stagione qui a Radio Città Aperta di Luogo Comune appunto con un luogo comune, ovvero Roma non è una città per biciclette. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io, Valentino De Luca, che parlo in radio, oppure su Twitter digitando @luogoc, oppure scrivendoci una bella mail luogocomune.radio@gmail.com. Per parlare del fatto che Roma sia o meno una città per biciclette, e Luogo Comune dice che non è una città per biciclette, quindi già il Luogo Comune risponde già di per sé, abbiamo ai nostri microfoni Stefania Salomone, che rappresenta in quest'oggi l'associazione Salviamo i Ciclisti. Stefania, buongiorno. Salve, buongiorno. Vorrei specificare che si chiama Movimento Salva i Ciclisti. Ci teniamo a ribadire che si tratta di un movimento perché non ha vertici, non ha situazioni diciamo decisionali, gerarchiche di nessun tipo. Insomma, siamo un movimento che intende raggiungere degli obiettivi di ciclabilità e mobilità sostenibile. Senti Stefania, è notizia di pochi giorni fa che secondo i dati della Confcommercio a Roma c'è stato un aumento nella vendita delle due ruote pari al 10%. Se noi prendiamo solo il dato di settembre, che diventa però il 15% se confrontato con i dati del 2012. Molti già parlano, ovviamente è un titolo, lo dico da giornalista, è un titolo che fa molto effetto giornalistico, molti parlano appunto di effetto marino, riferendosi all'immagine del neo sindaco capitolino legata appunto all'utilizzo frequente delle due ruote, soprattutto in campagna elettorale. E diciamo che innanzitutto, Stefania, secondo te c'è un nuovo vento, una nuova sensibilità nell'urbe per quanto riguarda le due ruote? Ma cominciamo col dire che indubbiamente i dati che tu mi hai detto prima sono confermati anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che afferma proprio in una analisi recente che nel corso del 2012 sono state vendute più di 1.700.000 biciclette e che l'uso delle due ruote nei giorni feriali è più che triplicato, quindi questo è un dato certo. Per quanto riguarda la città di Roma, indubbiamente io sono tra quelle che negli ultimi due anni ha deciso di salire in bici e utilizzarla come mezzo di trasporto, quindi diciamo posso essere un testimone di questo. Sono una persona che prima non la usava e adesso la usa, perché sono arrivata ad utilizzare la bicicletta per tante ragioni, indubbiamente. Il sindaco Marino è uno dei tanti testimoni che può rappresentare una nuova cultura. Il nostro sindaco in questo momento è tra quelli che ci sta dicendo che questo è un luogo comune, e ce lo sta dicendo come? Ce lo sta dicendo attraverso una serie di pratiche che lui sta tentando di mettere in atto, ad esempio la regionalizzazione dei fori. I fori sono in via di cambiamento e noi auspichiamo che il cambiamento prosegua, perché diciamo non siamo completamente soddisfatti come movimento, perché abbiamo una difficoltà su via Labicana, non possiamo circolare in senso diciamo contrario, cioè verso il Colosseo, è rimasta soltanto una corsia. Insomma, ci sono, come possiamo dire, degli incidenti di percorso che speriamo che vengano corretti, però diciamo che al momento attendiamo risultati maggiori, quindi siamo in osservazione, però una parte di ciò che aveva indicato nelle sue linee programmatiche anche prima delle elezioni, possiamo dire che insomma lo sta realizzando. Ora aspettiamo di vederne i risultati, indubbiamente, e aspettiamo anche di modificare delle piccole imperfezioni, vogliamo chiamarle così, insomma, ecco, c'è una parte dei fori in cui c'è la zona 30, ma i controlli a parte le prime 2 settimane sono stati interrotti, quindi indubbiamente bisogna essere molto attenti a che il limite imposto su quel tratto sia rispettato, e ci sono chiaramente degli strumenti che ci permettono di fare questo, ecco, vanno ripristinati. Senti Stefania, tu hai detto che sono 2 anni che hai sposato diciamo questa filosofia delle due ruote, questa filosofia della bicicletta, ma sì. Perché prima che mentalità avevi, che approccio avevi nei confronti della bicicletta? Beh, avevo l'approccio del Roma non è una città per biciclette, cioè la città, l'approccio è tipico di una persona che diciamo si sposta prevalentemente con i mezzi pubblici, ma ogni tanto anche con la macchina, e che auspicava che l'amministrazione locale prevedesse parcheggi ovunque, perché è possibile che io mi sposto e non so dove mettere la macchina, ma questa è una cosa da risolvere, eccetera eccetera. È cambiata la prospettiva, adesso io il come esattamente non lo so spiegare, però quando sono salita in bicicletta dai primi giri domenicali, no, si inizia così, andiamo a fare una gita nel parco o sull'Appia Antica, che comunque è uno dei tratti chiusi la domenica ciclabili in qualche modo, e poi vedi che è possibile andare a Roma in bicicletta, che Roma è una città bellissima da girare in bicicletta. Io avevo dimenticato il profumo di alcuni vicoli, avevo dimenticato le prospettive, avevo dimenticato le albe. L'alba in bicicletta a Roma è una cosa sensazionale. Ecco, e tu cose io le avevo dimenticate. Tu quindi hai mano a mano, ti sei, diciamo, è scattato anche qualcosa, perché io immagino che chiunque sposa questo nuovo tipo di filosofia approcci anche a una visione del mondo un po' diversa, una visione della società un po' diversa, correggimi se sbaglio, cioè non è solo monto in bicicletta e mi faccio la pedalata, magari vede il suo posto all'interno del gruppo sociale urbano, quindi della realtà circostante, un pochino cambiato, magari sente che anche può fare delle cose, può diciamo interagire con gli altri, o può vivere insomma con gli altri in maniera diversa, insomma. Diciamo che secondo te è momento vero questa cosa o è troppo filosofica? No, è assolutamente vera, perlomeno io posso parlare della mia esperienza, ma per i miei amici ciclisti che conosco e che incontro a volte quotidianamente, insomma, potrei dire la stessa cosa o una cosa analoga. Nel mio caso, certo, la mia ricerca di essere umano, la mia ricerca individuale mi ha portato ad assumermi determinate responsabilità verso me stessa, ma anche verso le persone che sono intorno, verso l'ambiente, verso, come posso dire, una spiritualità che sia bene comune, e in questo ambito ci rientrano tante cose, non ultima la scelta di girare con la bicicletta. Senti, quindi è una responsabilità, cioè assumersi la responsabilità di migliorare la qualità della vita, di migliorare l'aria della mia città, di migliorare la salute, perché la bicicletta aiuta anche in questo. Cioè, io non devo andare in palestra, perché se faccio 30 o 40 km al giorno, insomma, ci posso stare, no? Certo. Un'oretta di attività fisica, insomma, che io francamente 2 anni fa non facevo. Ma quindi è questo le cose, sono queste le cose da cui debbono essere salvati i ciclisti? Cioè tu 2 anni fa hai aderito a questo movimento Salva i Ciclisti, di cui fai parte appunto, ma già il nome però è un po' particolare, Salva i Ciclisti, ma da che cosa devono essere salvati? Beh, devono essere salvati dal traffico, devono essere salvati dalla velocità, devono essere salvati dall'incuria. Devono essere aiutati ad andare in bicicletta in maniera sicura, in sicurezza. E il movimento Salva Ciclisti è nato il 28 aprile e con una grandissima manifestazione che c'è stata il 28 aprile del 2012 proprio a Via dei Fori Imperiali, eravamo oltre 50.000, e in concomitanza si svolgeva la stessa manifestazione a Londra. E questo per dire che cosa? Che in due capitali europee volevamo sensibilizzare le persone a che questa cultura potesse e possa veramente cambiare, perché il ciclista ha bisogno di tutto il tessuto della città, il tessuto delle amministrazioni, il tessuto politico, il tessuto sociale lo aiuti a restare in sella e a restarci a lungo, perché poi i bambini impareranno a spostarsi in bicicletta. Stefania, le persone anziane che salgono in bicicletta e si spostano in bicicletta sono persone che hanno una salute migliore, cioè vivono più a lungo, questo è sicuramente dato... usare le due ruote, questo è proprio un dato oggettivo che esatto. Migliora la salute, migliora la qualità della vita, oltre che la qualità dell'aria. Fare sport migliora anche l'umore, visto che in questi ultimi anni di... Se andiamo in giro per Roma, ma purtroppo in tutta Italia, vediamo un sacco di facce tristi dovute anche alla situazione lavorativa ed economica, spesso e volentieri. Quindi migliora anche l'umore poter praticare un'attività sportiva regolarmente. Ma senti Stefania, ma se appunto tu, prima abbiamo parlato di Marino, questo sindaco ciclista per così dire, ma tu e il movimento di cui fai parte, ovvero Salve i ciclisti, che cosa chiede di pratico, visto che questa è una trasmissione che si rivolge a un pubblico prettamente romano, del Lazio, comunque insomma, quindi gente che conosce Roma, che conosce la città, lo spazio urbano. Dimmi praticamente che cosa hai in mente, per esempio. Noi chiediamo il cambiamento. E, diciamo in maniera molto generica il cambiamento, entrando nello specifico il cambiamento come si manifesta? Si manifesta principalmente attraverso la moderazione del traffico, moderazione a livello di quantità e a livello di velocità. Noi chiediamo che le zone dei quartieri abitati, a prescindere magari dalle grandi consolari, ma le zone abitate possano diventare delle zone 30, cioè dove la velocità a cui si sposta il veicolo più forte, perché non dimentichiamo che noi siamo gli utenti deboli della strada, noi insieme ai pedoni siamo gli utenti deboli, quindi abbiamo bisogno di essere protetti da questa frenesia che sembra non ci voglia abbandonare, quindi meno traffico e quindi mezzi pubblici che funzionino, perché giustamente non è detto che l'intera popolazione abbia voglia di spostarsi sulle due ruote, ma deve poter avere una valida alternativa. Senti, ma allora, secondo te adesso è possibile percorrere Roma, dividiamola in quattro quadranti, no? Che poi di solito si fa così ragionando della nostra città, è possibile spostarsi da un quadrante all'altro con la bicicletta per te? È possibile. Senza finire, ovviamente senza finire sotto una macchina, insomma, o finire sotto un treno, un cavalcavia, o giù da un cavalcavia, cioè è possibile in maniera civile potersi... Ci sono delle accortezze che indubbiamente noi utilizziamo per poterlo fare in maniera più sicura possibile, questo è chiaro. Tra di noi c'è una ampia condivisione di quali possono essere i tragitti più sicuri rispetto ad altri, ci suggeriamo a vicenda, insomma, qual è la strada migliore per un ciclista in queste condizioni. È chiaro che evitiamo dei punti in cui la circolazione è tale da rendere proibitivo il passaggio. E allora a quel punto uno si arrende e fa magari un giro un po' più lungo, ma che garantisce l'arrivo. Dei quattro quadranti chi sta messo peggio, secondo te? Ma diciamo le strade consolari, io direi. Non credo che ce ne sia una in particolare. Sì, forse diciamo quella su cui stiamo premendo, perché c'è un comitato molto valido, è la ciclabile della Nomentana, perché è da anni insomma che vengono stanziati fondi e poi questa ciclabile, guarda caso, si volatilizza nel giro di pochi mesi. E, ecco, le strade consolari sarebbe veramente fondamentale che venissero regolamentate e che venissero previste delle piste o delle corsie ciclabili, in modo da poter condividere la strada, nel senso che noi non vogliamo essere, come posso dire, ghettizzati, no? In qualche luogo dove c'è questi cricetini sulle ruote che vanno avanti e indietro sulla ciclabile, che bello ci hanno fatto la ciclabile. Quindi quello sarebbe il caso della pista ciclabile. Questo sarebbe il caso della pista, diciamo che a volte è indispensabile, ma in maggioranza dei casi sarebbero sufficienti delle corsie, cioè delimitate, colorate, e in questo modo si impara anche a condividerla questa strada. Cioè, non è che ci piaccia insomma, così tanto essere isolati, no, e messi magari dal lato estremo di una strada, no, oltre gli alberi, invisibili, cioè no, visibili, è bello andare in bicicletta, guardateci. Siamo contenti, se no, cioè, che sensibilizzazione è, no? Anche un pochino... relegare una cosa bella in un punto non visibile. No, corsie ciclabili. Ecco, le consolari, ad esempio, con un'unica corsia per le auto, una corsia preferenziale per i mezzi pubblici e la corsia ciclabile di lato o dove è più opportuno farla. Perfetto. Ecco, in questo modo siamo tutti sulla stessa strada, ciascuno con la sua velocità, ciascuno con le sue esigenze, ma tutti insieme. Stefania, arrivati sempre a questo momento della trasmissione, circa a metà o poco più, arriva sempre il momento di fare una brevissima pausa musicale di qualche minuto, una pausa musicale ovviamente sempre attinente al luogo comune, e per oggi, non so, ti piacciono i Queen? Assolutamente, ascoltiamo volentieri. Indovina un po' cosa ho scelto ovviamente il pezzo dei Queen, ovvero Bicycle Race. Ce l'andiamo a sentire e torniamo tra qualche minuto. Ok. Bicycle, I want to ride my white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars, you say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, you say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. E sulle note dei Queen, con Freddy che cantava e rivendicava il suo diritto a voler andare in bicicletta, appunto, ritorniamo in studio, sempre Valentino De Luca, dai microfoni di Radio Città Aperta per Luogo Comune. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, e ci sono io che parlo in radio, su Twitter @luogoc, oppure scrivete una bella mail proponendo appunto dei luoghi comuni questioni che, di cui volete sentir discutere, insomma, per pareri, opinioni o anche critiche, speriamo poche, ovviamente, riguardo la trasmissione, luogocomune.radio@gmail.com. Il tema di oggi è: Roma non è una città per biciclette, e ne stavamo parlando in collegamento telefonico con Stefania Salomone del Movimento Salva Ciclisti. Stefania, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione appunto della città appunto di Roma. Adesso entriamo un pochino nello specifico per fare l'identikit del neofita della bici. Chi è che una persona, magari un nostro radioascoltatore, è sempre stato incuriosito, non ha mai mosso però un dito, stavolta dopo che ascolta Luogo Comune si decide e dice: da domani cambio vita. Allora, quali sono gli step che deve fare, gli acquisti da fare, dove si può informare, insomma un po' di notizie utili per chi vuole avvicinarsi al mondo delle due ruote? Ma indubbiamente dipende dall'approccio, non abbiamo tutti lo stesso approccio, siamo tutti persone diverse, dipende anche dalle esperienze e da qual è stato lo stimolo magari che ci ha spinto a fare questo passo. Ecco, secondo me in base a quello scegliamo un iter, ammesso che ne esista uno o l'altro. A seconda delle persone con cui siamo entrati in contatto, no, che magari ci hanno fatto venire la voglia di provare, di tentare, abbiamo indubbiamente varie strade. La prima è quella di trovare un mezzo che sia adatto alle nostre esigenze, quindi c'è l'escursionista, c'è cioè quello che va a fare le vacanze, c'è cioè quell'altro che preferisce, che ne so, percorsi un po' accidentati, no? O preferisce, diciamo, la mountain bike, i boschi, gli sterrati, eccetera, e quindi ovviamente dovrà scegliersi un mezzo che gli consenta di farlo in sicurezza. E se serve una bici, diciamo, con meno pretese, una bici esclusivamente cittadina, insomma, ci sono tanti negozi, tanti posti, ma ci sono anche le ciclofficine, che sono dei luoghi dove delle persone volontarie si mettono a disposizione e raccolgono telai in giro per la città e li rimettono in sesto e costruiscono delle biciclette, diciamo, perfettamente funzionanti. Sì, se ne possono trovare molti per esempio nei centri, negli spazi sociali. Spazi sociali, esattamente, sì, e ce ne sono in tutta Roma, e c'è anche un sito Ciclofficine Popolari dove si possono trovare i vari indirizzi, insomma ognuno può scegliere quella che è più vicina alla propria abitazione o dove. Quindi se io non so Stefania, io non so nulla di come si ripara una bicicletta, posso andare nella ciclofficina e posso trovare qualcuno che mi dà una mano, insomma, e mi fornisce anche gli strumenti per farlo, lo fa lui, mi fa vedere come si fa, insomma. Indicazioni su come fare o anche aiuta le prime volte a farlo in modo, insomma, da poter imparare bene. E i pezzi di ricambio, pezzi che si possono ordinare, si possono riciclare, si possono sostituire, e, insomma, il mondo delle ciclofficine è vario ed è estremamente colorato in tutti i sensi, insomma. E tu hai qualche ok, questo è per quanto riguarda la bicicletta. Io adesso sono riuscito a rimediare una bicicletta magari usata a poco prezzo grazie alle ciclofficine, mi sono guardato su internet dove stanno, ho ricevuto una mano dai ragazzi e finalmente ho la mia bicicletta e sono pronto. Dove posso cominciare ad andare per Roma? Cioè, tu dove consiglieresti un giro per Roma? Ma la prima cosa che io farei è consultare il sito del Comune di Roma e andare a vedere dove sono le piste, perché per un neofita diciamo che quello dà sicurezza, almeno io ho fatto così. Sono andata a vedere dove erano le piste ciclabili, ho cominciato con delle piccole uscite durante i weekend per proprio prendere confidenza con il mio corpo in bicicletta, che sembrerà una cosa strana, ma non è, diciamo, la mia sensazione non è la stessa di quando cammino, insomma, il corpo è diverso, le sensazioni sono diverse, quindi abituarsi alla pedalata, riabituarsi, perché la maggior parte di noi quando era piccola è andata in bicicletta, poi ha dimenticato, insomma, nella maggior parte dei casi. E riabituarsi anche perché Stefania, dimmi se sei d'accordo, nel frattempo, quando uno era piccolo, facciamo una generazione, sì, adesso mi accorgo di fare un discorso da generazionale di chi ha 30-40 anni, però in mezzo ci sono stati anche gli anni 80, 90, Già forse negli anni 90 qualcosina si era mosso, però ci sono stati un ventennio dove si spingeva molto sul mezzo motore e le nostre città, e le nostre città venivano... Che purtroppo che sono stata adolescente in quegli anni, quindi... E le nostre città venivano modellate, le nostre città venivano modellate sui mezzi a motore. Certo. Questa sensibilità, cioè molto, non so, io la porrei negli anni 2000, cioè dagli anni 2000 in poi, questa è una sensazione mia personale, non so se poi riesco, penso che sia però... È anche una sensazione mia, non ho dei dati che sostengano le nostre tesi, però è anche una mia sensazione, sì. Quindi secondo te sta cambiando anche da questo punto di vista la richiesta della gente? Perché un luogo comune, per esempio, vedi, ci potevo fare un'altra puntata, era il fatto che la riscoperta della bici è legata, se tu diciamo, guarda, ultimamente in questi ultimi anni stanno riscoprendo la bici, i cittadini, eccetera, eccetera, la prima cosa che ti rispondono è perché con quello che costa la benzina, che però può essere... Quella può essere una delle molle, cioè indubbiamente ciascuno ha la sua di molla, no? Ci sta quello che, siccome, passami il termine, fa figo, mi compro la bicicletta a scatto fisso, eccetera, e che vado girando perché sono un figo, ci sta anche quello, cioè, è molto varia, voglio dire, l'utenza della bicicletta è estremamente varia, c'è quello che lo fa per esigenza, nel senso che io per andare al lavoro ci impiego con i mezzi pubblici o con la macchina un'ora e mezza, se riesco a trovare il tragitto adatto con la bicicletta magari ci metto 40 minuti, no? Faccio le stradine, insomma, secondarie dove magari non è consigliabile andare con altri mezzi e faccio quelle, benissimo, oppure vado nel parco, ci sono alcuni che sono fortunatissimi, riescono a fare il tragitto casa-lavoro nel parco, cioè accidenti. Comunque possiamo suggerire ai nostri radioascoltatori, per esempio, soprattutto a quelli neofiti che magari vogliono approcciare al mondo della bicicletta, almeno di cominciare il weekend, perché ovviamente chi ci sente dice sì, vabbè, il lavoro, ma io abito dall'altra parte, così, no? Allora, per non fare 100 non fa neanche 10. Allora, certo, potremmo magari suggerire di dire cominciamo a fare 10, magari il weekend, quindi non si lavora, si ha un pochino più di tempo, si potrebbe prendere le due ruote per andare a un parco, per andare a riscoprire il centro storico, magari ci stanno anche la domenica, ci stanno meno mezzi. Allora, la domenica si può andare tranquillamente a Via dei Fori Imperiali perché è chiusa proprio al traffico, ci sono solo pedoni e biciclette, quindi quello è un tratto salvo di domenica ed è un tratto consigliato e consigliabile, insomma, perché chi sta riprendendo la mano con la bicicletta. Altrettanto si può dire per l'Appia Antica, che è la domenica è chiusa al traffico, quindi si può riscoprire veramente quel percorso tra diciamo giardini, il parco dell'Appia Antica, le strade con gli antichi ciottoli, insomma è veramente un bellissimo posto dove andare di domenica. Oppure si può ad esempio venire il giovedì e il sabato dopo le 18 a Piazza San Silvestro, che è stata rinominata Piazza della Bicicletta, Bike Square, dal Movimento Salve Ciclisti, dove incontrare gli altri ciclisti che appartengono al movimento o anche no, semplicemente ciclisti urbani che vengono a prendere un aperitivo o a scambiare quattro chiacchiere in piazza. Quindi nascono iniziative anche per i fine settimana, anche per le vacanze, anche per, insomma, ci si scambia veramente esperienze e paure tantissime, cioè io sono stata rassicurata e tranquillizzata varie volte dai miei amici ciclisti che mi hanno dato suggerimenti, insomma, magari che io non avrei pensato mai. Senti, a questo proposito hai un sito o qualche sito internet da suggerire per chi vuole mettersi in rete e vedere un attimo? Allora, ci sono i gruppi su Facebook, che secondo me è la cosa più immediata, c'è Salva Ciclisti Italia e poi ci sono Salva Ciclisti di varie città, c'è quindi appunto Salva Ciclisti Roma, e un altro sito importante che abbiamo creato da poco, è Bicibus Romani. Abbiamo lanciato l'iniziativa dei Bicibus, che sono dei gruppi di persone che si spostano alla stessa ora per fare il percorso, diciamo, casa lavoro o casa studio, su dei tracciati e con degli orari prestabiliti, quindi facciamo una sorta di fermate, per questo ci chiamiamo Bicibus, ed è una iniziativa che sta avendo, diciamo, un discreto successo perché ci dà innanzitutto la sicurezza di essere in gruppo, e quindi questa è sempre una cosa positiva, insomma, per chi decide di ok, da domani vado al lavoro e sfido il traffico, però un conto è farlo singolarmente, un conto è dice guarda siamo in cinque, e uno si sente confortato da questa presenza, da questa vicinanza, ma soprattutto dalla visibilità. che ha un gruppo di 5 rispetto a un singolo. Anche perché è un bel momento da condividere. È un bel insomma. Momento, si stanno creando delle amicizie, delle cose, insomma, come è normale, ogni attività diciamo sociale e positiva insomma produce positività. Senti Stefania, ma a proposito dei ciclisti che vanno in gruppo, chi è di Roma ricorderà qualche mese fa che i ciclisti che andavano in gruppo in realtà erano qualche migliaio, che hanno colonizzato tutto il Lungotevere, partendo dall'Auditorium fino a tutto il Lungotevere, per arrivare mi pare all'ex Snia Viscosa sulla via Prenestina. Si chiamava quell'evento la Critical Mass. Magari chi stava dentro l'auto tirava giù i santi e clacsonava senza sosta, magari non ci ha capito molto. Vogliamo invece con più calma spiegare che cosa è successo quel giorno, che cos'è la Critical Mass? La Critical Mass è un evento internazionale che si tiene in più di 500 città del mondo e avviene l'ultimo venerdì del mese. I ciclisti spontaneamente in massa percorrono le strade delle loro città, che di solito sono occupate dalle automobili. E la Critical Mass cosa vuole dirci? Vuole dirci e vuole manifestare il diritto di utilizzare le strade in modo diverso. Che vorrebbe che le strade non fossero semplicemente il luogo dove centinaia di macchine si ammassano, ma la bicicletta in quelle 2 ore diventa il mezzo delle strade. E questo ovviamente comporta che il traffico si blocchi, vada in tilt, e quindi insomma ci sono indubbiamente dei risvolti negativi, che sono però quelli che in realtà poi ci fanno avere il contatto e ci permettono di avvicinare gli automobilisti e spiegare le ragioni. Senti, come reagiscono? Come reagiscono gli automobilisti? In maniera diversa, così come è immaginabile. Ragionando di statistiche, ragionando per statistiche. Che ascolta con pazienza, cioè quell'altro che magari perde la pazienza e magari si arrabbia. Insomma, abbiamo avuto indubbiamente degli episodi sgradevoli, ma abbiamo avuto anche degli episodi di grande solidarietà. Insomma, anche quello è sceso dalla macchina, ha detto, vabbè, lo aspettiamo. Tanto insomma, si tratta di aspettare che defluisca la grande massa di biciclette, che in realtà occupa le strade. Ma Stefania, che ho sempre pensato che in realtà, per quanto riguarda gli eventi della Critical Mass, al di là del singolo episodio spiacevole di cui dicevi, però si parte da un presupposto di base che quando stai là magari sei incavolato, perché devi andare da una parte, poi siamo tutti frenetici nel traffico, eccetera. Ma in realtà però l'automobilista di base ha dentro di sé una coscienza che, non dico sta sbagliando, non è che sta facendo qualcosa di sbagliato ovviamente, però il modello di città che gli viene proposto davanti agli occhi con la sfilata di queste migliaia di biciclette è un modello di città che lui comunque sposerebbe. Cioè comunque è un modello di città che in un certo senso trova la sua approvazione. Poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare e siamo d'accordissimo. Però mi sembra... Non so se questa coscienza, cioè se questo ragionamento viene in realtà fatto o meno. Io quello che posso dire, quello che vedo è che l'impossibilità di arrivare dove vuoi arrivare nei tempi in cui hai deciso, quindi tu sei più disposto ad accettare paradossalmente di avere intorno 400 macchine che ti impediscono di andare da qua a qua che 400 biciclette. Perché tu sei in una macchina e quindi la macchina è una cosa conosciuta, di cui sai il funzionamento, guidata da persone che, sempre nel tuo immaginario, pensano come te. Questi 400 scalmanati, non siamo mai 400, siamo molti di più, ma insomma, questa moltitudine di ciclisti, no? che pensano diversamente da te. In realtà poi forse in fondo non è così, perché tu lo capisci che 400 biciclette per le strade sono meglio di 400 auto, e lo capisci bene che se tuo nipote, tuo figlio deciderà di andare in bicicletta sarà una cosa fantastica, però forse non sei preparato ancora a questo cambiamento, ecco perché noi siamo per le strade e siamo lì anche per spiegartelo questo, per spiegarti che cosa è accaduto nella nostra vita. Ma, a seguito di questa scelta, ma, se ce lo lasci fare, certo, noi te lo spieghiamo. Tu che rapporto hai però con il mezzo al motore? Il tuo adesso è proprio di rifiuto? No, assolutamente no, mi sento di rifiutarlo, insomma io sono a questo punto del mio percorso, posseggo ancora un'automobile, la uso di tanto in tanto, per la maggior parte dei giorni lavorativi uso la bicicletta, a volte nel weekend mi trovo a utilizzare la macchina, non sempre, vado a fare giri e uscite con i miei amici in bicicletta, quindi se prima ad esempio caricavo la bicicletta nella macchina e poi la scaricavo e andavo a fare il giro, adesso parto da casa con la bicicletta. Questo per me è stato un grandissimo successo, quindi ecco, mi sento di condividere questo cambiamento. Senti Stefania, una domanda che mi viene imposta dalla deontologia professionale, cioè sai che chi si occupa di comunicazione e giornalismo deve dare sempre un po' le due campane. Diciamo che, ribaltando un po' i luoghi comuni sui ciclisti o tirandone fuori dei nuovi, gli automobilisti da parte loro dicono: sì, avete ragione, la salute è giusto, un nuovo tipo di città, un nuovo tipo di mentalità, però è anche vero che ci sono alcuni ciclisti, io li vedo che guidano in maniera spericolata, occupano la carreggiata, fanno zig zag tra le macchine, non marciano in fila indiana e insomma vengono percepiti un po' come, diciamo, siccome uso un mezzo alternativo è alternativo il mio approccio alla strada, cioè faccio un po' come voglio. Secondo te, diciamo, c'è qualcosa di vero oppure ciclisti corretti? Beh, no, non sempre i ciclisti rispettano il codice della strada. Il problema è capire come posso dire, avere il reale senso dell'arroganza, cioè quanto la trasgressione al codice della strada è arrogante da parte di un ciclista che passa col rosso per evitare di trovarsi magari nel flusso degli scooter che gli partono davanti al naso o dietro alla ruota, insomma, no? Cioè quanto è arrogante quel gesto rispetto, diciamo, a una macchina che magari ti passa a 10 centimetri. Ecco, questo secondo me dovremmo valutarlo. Io non voglio diciamo giustificare necessariamente la trasgressione, però devo dire che io a volte passo con il rosso perché mi sembra dei due mali quello minore. Senti Stefania, per concludere, vuoi parlarci di qualche prossimo appuntamento a cui i nostri radioascoltatori si possono informare ed eventualmente partecipare? Sì, io adesso in questo momento sono già pronta per andare alla Critical Mass, perché essendo l'ultimo venerdì del mese noi ci incontriamo alle 18:30 a Piazza Vittorio e facciamo questo giro per Roma, insomma, per significare l'importanza della nostra scelta e l'importanza che questa scelta potrà avere se tutti saremo più sensibili a questo genere di idea, no? E anche di idea della nostra città. E lunedì pomeriggio invece c'è una pedalata sulla ciclabile della Palmiro Togliatti, che è una ciclabile un po' particolare, nel senso che è divisa in due tronconi e non si capisce come mai non sia mai stata unita, quindi diciamo che la parte che parte da Colli Aniene e arriva al Roma L'Aquila, in qualche modo sotto la Roma L'Aquila, a un certo punto ha un anello che torna indietro, cioè è come se questa ciclabile non dovesse mai andare da nessuna parte, no? E torniamo al criceto di prima, quindi uno parte e poi ritorna sempre allo stesso posto e non comunica con il resto del troncone, insomma, della Palmiro Togliatti, e soprattutto che è un'altra delle istanze che facciamo con il nostro sindaco, la manutenzione delle ciclabili esistenti, cioè non è che una volta costruita abbiamo finito la questione, cioè la manutenzione va fatta perché poi le radici, le piante, gli alberi diventano anche poco sicure. Stefania, con questo appello al sindaco ringrazio per essere stata qui con noi, insomma, spero che questa trasmissione sia servita anche per sensibilizzare un pochettino, diciamo, i nostri radioascoltatori verso la cultura delle due ruote. Grazie Stefania. Grazie a voi. E ringraziando appunto Stefania Salomone del movimento Salva i Ciclisti per essere stata nostra ospite, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Ricordiamo sempre di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io che parlo in radio. Twitter ci trovate con @luogoc oppure scrivete una mail luogocomune.radio@gmail.com. E da Luogo Comune è tutto, questa lo ricordo era la prima puntata della seconda edizione qui a Radio Città Aperta. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre verso le ore 10:40 circa e sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca, una buona domenica. Ciao!